Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buongiorno e benvenuti, oggi sono qui da sola, Nicoletta torna domani ma mi ha lasciata con una notizia curiosa che voglio subito condividere con voi e commentare insieme a voi. Riguarda il cammino di cui abbiamo parlato tante volte naturalmente qui a Cuore Denari. La notizia che vediamo oggi arriva dalla Gran Bretagna. Tutti sappiamo che camminare aiuta a mantenersi in forma, ma sono pochi quelli che lo fanno. Per superare questa pigrizia così diffusa servono incentivi, non quelli fiscali di cui parliamo spesso e volentieri. Forse in Inghilterra hanno trovato l'idea vincente e sulla scorta del vecchio adagio imparare giocando, un medico di Reading, William Byrd, ha inventato un gioco che coinvolge interi quartieri in città e li costringe a muoversi. Si chiama Beat the Street, letteralmente batti la strada. Viene promosso attraverso la società Intelligent Health, di cui Byrd è fondatore e presidente, e lo scorso anno sembra, secondo un bilancio appunto diffuso, ha fatto muovere oltre 300.000 persone. Chi vuole partecipare deve accreditarsi, viene dotato di uno speciale telecomando, naturalmente quello non ce lo possiamo mai far mancare. Ogni volta che fa passare il suo telecomando su dei sensori colorati disseminati per tutta la città, su pali della luce o semafori, guadagna dei punti e chi accumula più punti vince. In palio ci sono buoni sconto nei negozi locali, ecco qua l'aspetto naturalmente di denari della vicenda, ma anche ingressi al cinema e altre piccole gratificazioni. Che ne pensate di un'idea come questa? Voi quale incentivo pensate? Quale incentivo vi servirebbe per farvi dire addio alla poltrona? Se volete me lo potete raccontare facendomi un po' di compagnia stamattina all'800 24 0024 oppure scrivetemi anche al 349 238 6666. Leggo i messaggi, leggo anche quelli che mi mandate su WhatsApp e naturalmente sono tutti numeri validi come sempre anche per i temi di denari di oggi. Torneremo dalle 11 in avanti a fare il punto sulla delicata situazione di Banca Monte dei Paschi con le notizie che arrivano in continuazione, che arriveranno anche presto sull'operazione di conversione delle obbligazioni subordinate in azioni, un'operazione che adesso comincia a riguardare sempre più seriamente i piccoli risparmiatori, che sono generalmente quelli ai quali ci rivolgiamo noi di Cuore e Denari. Poi faremo anche un blitz veloce a Londra per sentire invece quali sono le notizie che riguardano l'altro grande colosso bancario UniCredit. Ma a proposito di denari, prima di partire con i piccoli approfondimenti di Cuore, vediamo che cosa ci dice oggi la borsa. I due temi del giorno ve li ho segnalati, ma in realtà ce n'è un terzo che è ben più forte. Mediaset più 23,25% in questo momento a Milano. Arriva presumibilmente, ma più che una presunzione mi pare ormai un'evidenza, la scalata ostile del colosso francese Vivendi. E il titolo appunto prende il volo. Il gruppo ha comunicato di detenere il 3% del capitale del Biscione con l'obiettivo di arrivare almeno al 20%. Fonti appunto del gruppo del Biscione dicono si tratta di un'operazione ostile, ma al mercato queste operazioni piacciono e ci specula su e il titolo vola. Più un 49% per il FTSE MIB a Piazza Affari. Grazie anche ai rialzi di UniCredit più 7,43% con l'aumento di capitale ormai annunciato formalmente da 13 miliardi che arriverà interamente garantito appunto dal consorzio di garanzia bancario che sostiene l'operazione. Il gruppo, poi lo racconteremo nel dettaglio, ha annunciato anche altre notizie, 6.500 esuberi entro il 2019, poi la cessione di sofferenze per 17,7 miliardi, il titolo era partito malino per poi recuperare tutto e risalire rapidamente. Si porta con sé anche FinecoBank, che è il gioiellino di casa UniCredit, di cui UniCredit ha già ceduto diversi pacchetti, ma evidentemente il mercato pensa che si possa fare ulteriore cessione di capitale, il titolo va molto bene a Piazza Affari. Monte dei Paschi più 2, di Monte dei Paschi appunto parleremo diffusamente nel corso della seconda parte della trasmissione. Andiamo invece adesso ai temi di Cuore. Partiamo allora da una novità, il nostro primo approfondimento di questa mattina, che riguarda le etichette, perché da oggi entrano in vigore le norme previste dal regolamento europeo numero 1169 del 2011. È un regolamento relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. L'etichetta nutrizionale, perché così si chiama, È l'unica indicazione mancante fino ad ora per far compiere al consumatore delle scelte consapevoli su come gestire la propria dieta alimentare per tutelare la propria salute e garantire il proprio benessere. Devono essere indicati in questa etichetta il contenuto calorico dell'alimento, quindi l'energia che fornisce, i grassi, anche quelli saturi, i carboidrati con specifico riferimento agli zuccheri e il sale, ma anche deve essere appunto indicato il tema allergeni. Per i grassi vegetali si dovrà specificare quali tipo appunto di grasso viene utilizzato. Questo in linea generale, ma per sapere qualcosa di più dettagliato rispetto a questa importante novità ci aiuta un grandissimo amico di Cuore Denari che finalmente torna da noi, il dottor Attilio Speciani, specialista in allergologia e immunologia clinica a Milano. Buongiorno e bentornato. Buongiorno, che bello sentirsi chiamare uno amico. Vabbè, è così, insomma, lei lo sa che è uno dei nostri preferiti, ma soprattutto uno dei nostri preferiti da parte dei nostri ascoltatori, dottor Speciani. Allora lei oggi deve aiutarci a vederci un po' chiaro, deve fare anche un po' l'oculista, se possibile, di questa puntata. Vabbè, allora, ci proviamo? Le etichette alimentari, dottor Speciani, sono praticamente, possiamo dire, l'unico strumento a disposizione del consumatore per orientarsi fra gli scaffali del supermercato, oltre chiaramente a quello che si può vedere a occhio vivo, ma naturalmente bisogna sapere quello che è il contenuto anche di scatole, barattoli, perché, vetri e quant'altro. Perché purtroppo c'è una carenza dal punto di vista educativo. Cioè, insieme alle cose che ha descritto prima, Deborah, ci sono anche le indicazioni sulle proteine e sulla quantità di fibre, certo, che sono presenti, ed è abbastanza drammatico. Io quando cerco di spiegare alle persone che cosa devono mangiare e come fare i conti, no? dal punto di vista di come bilanciare bene un pasto, spesso le persone non sanno cos'è una proteina, cos'è un carboidrato, cioè sono elementi per cui almeno adesso abbiamo un'etichetta che ce lo dice. Io credo che la trasparenza sia uno degli elementi più importanti che emerge. Tra l'altro, questo ad esempio supererà alcuni aspetti che sono abbastanza critici. Ad esempio, il fatto di descrivere con molta precisione la presenza degli zuccheri è un tema che renderà conto. Non ho detto che sia bene o male, però deve essere trasparente. Non so, ci sono sostanze in cui vengono aggiunti zuccheri che derivano dalla frutta piuttosto che, e le persone credono di mangiarsi certi tipi di alimenti e in realtà sono addizionati da zuccheri d'uva piuttosto che zuccheri di mela o d'altro, e di questo spesso non ce ne traccia. Adesso invece c'è un obbligo che fa capire quanto zucchero uno sta mangiando per davvero. Certo. Questo è un dato importante. Ma non diventerà, come dire, una fonte di informazione paradossalmente che produrrà un problema contrario, di un eccesso di informazioni che genereranno invece confusione nel consumatore, perché allora lì bisognerà fare un passo avanti e imparare a leggere l'etichetta? Sì e no, perché io sono dell'idea che poi quando l'informazione esiste poi la gente inizia ad usarla, e quindi nel momento in cui a livello mondiale in questo momento ad esempio la ricerca della quantità di zucchero presente è uno dei primi global trends che a livello mondiale è fatto, e il secondo è proprio quello del tipo di grasso presente all'interno di una sostanza, di un cibo. Il fatto che oggi questa indicazione, che non è solo quanti grassi ma anche il nome e il cognome dei grassi, cioè uno deve sapere esattamente che cosa sta mangiando, se è un olio di palma, se è un olio di cocco, se è un olio di soia, se è un olio di oliva, se è un olio di oliva extravergine o quello che possa essere. Certo. Questo mi sembra di diritto. Tra l'altro io esco dal cuore dentro dei denari. Tutti pensano, a me piace pensare che quando c'è stato l'impeachment di Clinton, che tutti hanno riferito a tematiche critiche. Quanto ci torna indietro nel tempo? Tanto. Però la prima legge che gli fu bloccata in quell'occasione era proprio quella che diceva: chiamiamo per nome e cognome i grassi. È un tema su cui c'è un giro lobbistico forte, pesante, voglio dire. Definire che cosa uno sta mangiando è una lotta acerrima, cioè, come dire, ci sono persone che cercano di non fartelo sapere e c'è una richiesta da parte del pubblico che invece lo vuole sapere. Oggi uno può scegliere liberamente con maggiore consapevolezza, certo. Quindi credo che sia un dato positivo. Senta, dottor Speciani, secondo lei, poi do la linea al traffico, ma intanto in qualche secondo ci può dire quelli che lei ritiene siano i prodotti sui quali fino adesso non c'era una sufficiente informazione che beneficeranno di questa etichetta nutrizionale così arricchita di informazioni? Secondo me su questa cosa ci saranno proprio i prodotti complessi, quelli che hanno una composizione ampia. quelli che a volte passano attraverso prodotti considerati così, come dire, naturali, benefici, semplicemente perché magari sono, non so, le creme, gli yogurt, questi prodotti che in realtà oggi nell'immaginario collettivo uno dice prendo qualcosa di positivo, in realtà ci sono dei prodotti fantastici, dei prodotti un po' meno. Certo. Quindi in un prodotto complesso la possibilità di riuscire a capire effettivamente qual è la situazione. Io una delle cose che spesso dicevo, prima di lasciare la linea al traffico, era quando ci sono in un'etichetta 18 nomi diversi, diffidiamone, no? Quante meno ce ne sono, meglio è. Quello ad esempio dello zucchero, per cui spesso ci sono denominazioni diverse per lo zucchero, che figurano in ultima analisi distribuite nel corso degli ingredienti, quando in realtà se li sommi poi tutti insieme questi diventano quasi il prodotto determinante e comunque dominante. Esatto. Allora questa cosa sicuramente aiuterà le persone in questo momento a capirlo e sarà importante perché questa etichetta impedisce di avere il colesterolo, cioè volutamente non vengono dati sul colesterolo che per anni è stato lo spauracchio, eh? Ma perché la scienza sta evolvendo e si capisce operativamente che il colesterolo non dipende da quello che viene introdotto come colesterolo, ma dall'equilibrio metabolico e quindi spesso proprio l'eccesso di carboidrati e di zuccheri va ad interferire in questa direzione. Quindi secondo me iniziamo a muoverci positivamente in questa direzione. Ottimo, benissimo. Senta, dottor Speciani, vado al traffico intanto, ma lei se lo sta curando questo raffreddore perché la sento bello intasato stamattina? Ah, se avessimo dovuto fare un incontro ieri avrei avuto qualche difficoltà, oggi sto già benissimo. È il recupero, traffico tra poco. Nuova Giulietta Winter Edition, optional per l'inverno inclusi nel prezzo. Vi presenta. Cuore e denari. Tra l'altro, a proposito di traffico, Carmelo, se mi togli, grazie, ecco qua, perché avevo un rimbombo in orecchio, voleva mettere a prova il mio udito stamattina. Carmelo Lauricella, mi fai blitz. A proposito di traffico, volevo di nuovo ricordarvi che qui a Cuore Denari stiamo riprendendo a monitorare la qualità dell'aria. Domani con Nicoletta ci sarà anche il dottor Mauro Mocci, medico ISD, l'Associazione Medici per l'Ambiente. Torneremo a fare il punto della situazione con il nostro esperto, stileremo anche una classifica delle città con l'aria migliore e quelle con l'aria peggiore attraverso una verifica a campione lungo la penisola. Peraltro stamattina molti giornali riportano di come le polveri sottili siano sopra i limiti in moltissime grandi città del centro nord. C'è un pezzo della Stampa stamattina che racconta proprio come chi tiene in ostaggio le città in questi giorni è l'anticiclone delle Azzorre, tanto che per i prossimi 10 giorni l'aria sarà pessima, avvertono i meteorologi. Le concentrazioni hanno superato i limiti, soprattutto in Veneto, a Treviso e in Piemonte. A Torino pessima la qualità dell'aria, tanto per cambiare, anche in Lombardia. Per cui, dottor Speciani, non possiamo far altro che rinchiuderci in qualche supermercato, magari ci divertiamo a leggere le etichette così passiamo un po' del tempo senza respirare male, ma non oppure, so. Oppure a prendere prodotti che l'etichetta non hanno, come la frutta e la verdura. Eccolo là, perché ecco. Non sono, Esatto, dopo averle belle pulite, perché naturalmente seppure sulla frutta appunto si attacca quest'aria che ha questa qualità così pessima, insomma, vabbè, ma a parte le battute. Allora, torniamo sulle nostre etichette, sulle nuove etichette alimentari. L'obiettivo è dare più trasparenza appunto al consumatore anche in termini di informazione. Il regolamento prevede che alcuni prodotti siano esentati dall'obbligo della dichiarazione nutrizionale. Fra questi ci sono i prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti, come per esempio gli ortofrutticoli di terza gamma, frutta e verdura congelata, surgelata, e quelli di quarta gamma, invece ortofrutta fresca, lavata, confezionata e pronta al consumo, che non hanno subito alcun trattamento. Ci sono dei suggerimenti in questo senso da dare ai nostri ascoltatori, dottor Speciani? Ma sono, direi che c'è l'evidenza. L'idea di mangiare qualcosa di raccolto dall'albero o appena semplicemente lavato e rimesso dentro ad una busta rappresenta quello che è la normalità, come dire, per l'essere umano. Etichettare la normalità rimane sempre un pochettino strano, no? E quindi è giusto che ci sia questo tipo di indicazione. Giusto per fare un esempio opposto, il prosciutto crudo in realtà viene etichettato invece perché è composto sì sempre solo da carne di maiale ma anche poi da sale, quindi la processazione richiede un'etichettatura e quindi un'indicazione. Devo dire che A parte il fatto dei tempi, no? Perché quando questa roba è uscita nel 2011, diceva chi lo sa poi quando ci staremo, invece ci siamo arrivati, quindi il tempo passa e va purtroppo molto veloce, e quindi, però adesso è un dato, certo, secondo me importante, che ha affiancato anche il cambiamento della scienza. In questa, esatto, Europa di cui si parla sempre per le sue misure di austerità che infligge a tutti i paesi, in realtà ci sono molti passi avanti che si stanno facendo per rendere uniforme, omogeneo anche la regolamentazione in molti settori, e questo è uno di quei campi, no, dottor Speciani? Pare sì, non solo, tra l'altro io sono un fervente europeista rispetto ad esempio se vedo rispetto a delle norme invece statunitensi, per giusto per porci dall'altra parte, abbiamo delle qualità dei cibi in Europa che al di là di tutto mantengono dei livelli veramente importanti. C'è un'attenzione che sta crescendo, perché c'è un bisogno da parte della gente, anche se non tutti, ma in crescita, di gente che vuole capire perché, cosa e quanto questa cosa c'entri con la salute. Io tocco sempre un tema denaro. Se sono previste delle crisi dei servizi sanitari nazionali, perché, come dire, ci sono spese che crescono, eccetera. La gente deve iniziare a pensare per sé, no? Cioè capire come mangiare, che è uno degli elementi che ad esempio rispetto a diabete e obesità, che sono tra le spese più ampie che esistono sulla faccia della terra rispetto al tema salute, il fatto di scegliere cosa mangiare è già il 90% della soluzione. Un ascoltatore, e poi la saluto, dottor Speciani, scrive: ma perché non si crea un'azienda di rating sui prodotti alimentari? Possiamo definire un po' così l'etichettatura, no? Il rating è la pagella anche dell'alimento, se vogliamo. Sì, questo è fantastico. Dopodiché, se noi pensiamo, voglio citare quando c'è stato l'idea dei semafori, no? Quindi verde, rosso, bianco, c'erano le varie possibilità di etichettare un cibo, sono sorte delle polemiche terribili, no? Nel senso che veniva tipo un soft drink pieno solo di zucchero, in realtà veniva classificato perfetto perché non conteneva col colesterolo, quando sappiamo che in realtà il fatto che sia ricco di zucchero può portare invece a dei problemi di tipo metabolico decisamente importanti. Certo. Quindi entrare nel rating è difficoltoso, perché ognuno poi si guarda il rating dalla sua parte, definendo che io ho sempre ragione, no? Questo è un po' il criterio. Per cui, però è vero che già questa cosa, un'etichettatura di questo tipo, ci avvicina ad una possibilità di dare dei giudizi anche sulla modalità in cui un cibo, ottimo, è fatto, e quindi per la salute nostra diventa importante. Grazie, dottor Speciani, per essere stato con noi. Buona Santa Lucia, perché adesso di Santa Lucia parleremo. Segnalo solo sul suo blog eurosalus.com un articolo molto interessante che mette in relazione cammino e diabete. Tutti gli interessati che se lo vadano a leggere, ma anche chi non è interessato, per prevenzione va bene anche in questo senso. Grazie, buona giornata. Buona giornata a voi, grazie a voi. E io non so se Santa Lucia e Babbo Natale leggano le etichette, ma una cosa è certa, saranno impegnati a leggere le letterine dei nostri bambini. Oggi è Santa Lucia, la protettrice della vista, e non solo, in diverse città del nord Italia e in Svezia. La giornata di oggi è la giornata di festa, soprattutto per i bambini, perché Santa Lucia, viaggiando di casa in casa in compagnia di un asinello, lascia dei doni ai bambini, doni che sono sicuramente più che sicuri. Ma se i genitori volessero dare dei consigli a Babbo Natale e alla Befana, cosa devono sapere? Lo chiediamo per delle informazioni flash in un minuto al nostro dottor Antonino Reale, responsabile di pediatria dell'emergenza del Bambino Gesù. Dottor Reale, ha un minuto di tempo per dirci tutto quello che è necessario sapere. Senz'altro, buongiorno Deborah, buongiorno agli ascoltatori. Babbo Natale e Santa Lucia sono sicuramente gli esperti di giocattoli, vogliono accontentare i bambini, però qualche volta forse ignorano anche che possono essere pericolosi, quindi ricordiamogli alcune regole per acquistare e portare in dono un giocattolo ai bambini. Regole semplici da seguire, poche, ma che devono conoscere loro e anche i nonni, se anche, alle volte anche i nonni volessero fare un piccolo regalo. È importante comprare e acquistare i giocattoli in negozi autorizzati, questo, certo, è importante, non prenderli così per strade in posti non autorizzati. Dottor Reale, guardi, qua sono impietosi in regia, facciamo una bella cosa, registriamo una bella intervista con lei, la mettiamo sul sito con tutte le nostre raccomandazioni. Il tempo ci è sfuggito di mano questa mattina, ma ci ritorneremo magari prima di Natale. Intanto le informazioni arrivano sul nostro profilo. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15.30 tutti i giorni su Radio 24. State ascoltando un programma offerto da Aceto Balsamico di Modena del Duca, per un Natale al vertice del sapore. Cuore e denari. Ed eccoci ritrovati in diretta, parte adesso una nostra lunga quasi ora appunto di approfondimento sul caso Monte dei Paschi. Torniamo a fare un punto della situazione sulle vicende di questo grande storico istituto di credito, a beneficio soprattutto di quegli ascoltatori che per la verità non capiscono cosa stia succedendo, perché arrivano notizie su notizie un minuto dopo l'altro, un'ondata di notizie che riguardano, diciamocelo chiaramente, il salvataggio di questa banca. C'è stato un no molto secco qualche giorno fa da parte della Banca Centrale Europea alla richiesta di proroga da parte appunto di Monte dei Paschi, che deve ricapitalizzarsi necessariamente entro il prossimo 31 dicembre, ma la banca voleva tempo fino al 20 gennaio. La BCE appunto ha detto no a questa richiesta di procrastinare i termini, e quindi nuove riunioni del consiglio di amministrazione in piena emergenza. Lo Stato, che è anche in, come dire, stato di allerta tra virgolette, perché ha pronto un provvedimento di salvataggio. Nel lunghissimo consiglio di amministrazione della banca, che si è tenuto domenica e domani ce n'è un altro molto importante, è stata presa, come abbiamo raccontato anche ieri più volte, la decisione di fare un ultimo, anche se difficile, tentativo per evitare la nazionalizzazione dell'istituto senese e quindi anche il sacrificio per molti risparmiatori, degli obbligazionisti in particolar modo. C'è sempre un aumento di capitale necessario da fare, vale 5 miliardi, e sulla base delle notizie che abbiamo fino a questo momento dovrebbe essere fatto seguendo in primo luogo la strada della conversione delle obbligazioni subordinate in mano ai risparmiatori retail, ai piccoli risparmiatori, che nella prima fase di conversione delle obbligazioni subordinate erano stati appunto tenuti fuori. Poi dovrebbe arrivare, ma qui siamo sempre nell'ordine del condizionale, il fondo del Qatar, che dovrebbe mettere sul piatto 1 miliardo. Anche il Qatar aveva detto lo faremo, ma aspettiamo l'esito del referendum. In realtà l'esito del referendum c'è stato questo no che ha teoricamente allontanato molti possibili investitori in questa operazione di ricapitalizzazione di Monte dei Paschi. Il Qatar avrà detto presumibilmente aspettiamo il nuovo governo è arrivato, ma ancora insomma non si chiariscono le idee in quell'area del mondo su cosa fare, appunto, se investire o meno in questa banca italiana. E poi quello che rimane da rastrellare, probabilmente per quello che rimane da rastrellare, si passerà dal mercato con appunto un aumento di capitale tradizionale, almeno così sembra dalle notizie che abbiamo fino a questo momento. Noi questa mattina facciamo, ribadisco, un punto della situazione, cercando però di fare un focus di nuovo, lo abbiamo fatto anche in un'altra puntata circa 2 settimane fa, cercando di capire come potrebbe, dovrebbe funzionare Consob permettendo per quei 40.000 risparmiatori che hanno in mano obbligazioni subordinate per 2 miliardi e 160 milioni di euro. Perché le domande che si fanno sono molte. Intanto non hanno un adeguato profilo di rischio, e questo è il punto cruciale appunto che solleva la Consob in queste ore. A che prezzo verrà fatta questa conversione? Consideriamo che ora abbiamo già un riferimento, che è il 1 miliardo già convertito da investitori istituzionali. Ci basta come parametro? Insomma, tante questioni nebulose che stamattina proveremo a chiarire con Vito Lops del Sole 24 Ore. Buongiorno. Ciao Vito, ben trovato, ben ritrovato. Per una volta tanto ti sperimento in un tema diverso dai mutui, no? Un territorio nuovo per te, ma non tanto. Insomma. Educazione finanziaria va benissimo. Esatto, infatti, perché qua bisogna fare un po' di chiarezza anche sui termini nuovi che sono venuti fuori sulla questione Monte dei Paschi, l'ultimo dei quali è il concetto dell'adeguatezza bloccante, che abbiamo scoperto appunto esistere. Quindi stamattina farò fare anche il suo lavoro ad Alessandro Pedone, che non è solo responsabile risparmio dell'Associazione dei Consumatori ADUC, ma è anche un consulente finanziario indipendente. E quindi sul tema MiFID, la direttiva appunto europea che disciplina i mercati finanziari, è ferratissimo. Pedone, buongiorno e ben ritrovato, e grazie di essere con noi. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Poi faremo anche una chiacchierata più avanti con il nostro Marco Ferrando, che questa mattina è a Londra, sta seguendo la presentazione del piano industriale di Unicredit, anche qua tema caldissimo del momento, perché quasi passa un po' in secondo piano, perché ormai il mercato ha digerito la notizia. notizia, Unicredit fa più 8% in borsa, deve fare questo piccolo aumento di capitale da 13 miliardi, però avrebbe già tutto il sostegno da parte del consorzio bancario, appunto appositamente costituito per l'operazione, per cui forse per questo c'è più serenità. E ormai tutte le indiscrezioni che dovevano uscire su questo piano sono uscite da settimane, quindi oggi il mercato sta premiando il titolo, anche un po' cinicamente, perché ha annunciato 6.500 esuberi entro il 2019, non ci sarà nessun dividendo per questo esercizio finanziario, ma il mercato non interessa, guarda avanti e il gruppo appunto cresce. Allora, Vito, da che cosa vogliamo cominciare? Tu nei giorni scorsi hai scritto, proprio ricordando come già Monte dei Paschi avesse dato la possibilità dal 28 novembre al 2 dicembre agli investitori istituzionali di convertire le subordinate in loro possesso, e quella prima fase è andata tutto sommato bene, 1.200.000 euro appunto raccolti da 200 milioni di euro raccolti dalla banca. Peraltro Generali è stato l'investitore più importante che ha aderito alla conversione, diventando oggi di fatto il primo azionista della banca in via sempre teorica, con l'8,5% del capitale. Sulla base di quello che è già successo, come potrebbe essere possibile pensare che possa andare altrettanto bene l'operazione di conversione delle obbligazioni subordinate che sono in mano ai piccoli risparmiatori, a questi 40.000 risparmiatori italiani? Insomma, un punto della situazione su questo per partire. Sì, il vantaggio di, diciamo, del piano di conversione volontaria, che è la strada principe che sta cercando di seguire in extremis Banca MPS, per non ricorrere alla seconda ipotesi, che è quella dell'intervento dello Stato, è che nel caso in cui appunto andasse in porto questa opzione, agli obbligazionisti, a questi piccoli obbligazionisti, sarà data la possibilità di avere un rimborso di un titolo che in questo momento vale 54 sul mercato a 100, e poi, quindi, diciamo, ritornare al prezzo di emissione. Esatto, a cui l'hanno acquistato, sottoscritto praticamente. Sì. Però poi dopo ovviamente saranno obbligati, tra virgolette, a comprare le azioni, le nuove azioni MPS. Esatto, dopo, perché non è un capitale, rimborso cash, non è un buyback di obbligazioni, ecco, no, come, è una come si direbbe, esatto, di questo importo, che però viene inizialmente portato appunto a 100 sul valore dell'obbligazione e poi diventa azione. Esatto, però gli dicono ai risparmiatori: tu contestualmente devi reinvestire questo capitale in azione e diventare azionista della banca. Con il rischio ovviamente che di solito quando ci sono gli aumenti di capitale, il valore delle azioni tende a scendere, proprio perché gli aumenti di capitale sono dilutivi sul valore delle azioni. In ogni caso, questa opzione, nei panni di un piccolo obbligazionista, di uno dei 40.000 piccoli obbligazionisti che hanno queste obbligazioni, ricordo, in scadenza nel 2018, emesse nel 2008, in scadenza nel 2018, potrebbe essere questa l'opzione, diciamo, preferibile, perché poi se interviene lo Stato, anche se non sono date al momento note le eventuali condizioni, è chiaro che il prezzo di rimborso probabilmente sarà inferiore ai 100 promesso dal piano di conversione volontaria di MPS, a cui hanno aderito anche gli investitori istituzionali, tra cui, come ricordavi appunto, Generali. Quindi lo scenario è abbastanza complicato, anche perché poi diciamo che allo sportello si pone un lavoro in extremis clamoroso, cioè convincere diciamo gli obbligazionisti a fare questa conversione. Cosa che non devono fare peraltro in filiale, in realtà devono solo informare sul fatto che viene fatta questa operazione, ma non possono fare nessun tipo di sollecitazione all'investimento, perché no, se no sarebbero altri guai. Intanto i riflettori lo scrivono tutti i giornali, questa mattina lo scrive molto bene anche Carlo Festa sul Sole 24 Ore, sono puntati sulla Consob, l'autorità che vigila sul mercato finanziario, perché si dovrebbe pronunciare, qui andiamo all'altro tema tecnico ma delicatissimo, importantissimo di tutta questa operazione, sulle modifiche del prospetto che punta ad allargare la platea dell'offerta superando i vincoli della cosiddetta adeguatezza bloccante. Allora, qual è il punto? E qua chiamo in causa Alessandro Pedone, perché naturalmente per chi sottoscrive un'obbligazione bancaria lo fa perché ha un determinato profilo di rischio come investitore, che è probabilmente diverso da quello che potrebbe essere il suo profilo di rischio se fosse un azionista. Allora, che cos'è questo concetto dell'adeguatezza bloccante? Perché esce fuori in questi termini così rilevanti in questa faccenda? Pedone ci spiega da dove nasce questo termine e perché oggi diventa fondamentale anche per far funzionare tutto questo, questa parte dell'aumento di capitale di cui Monte dei Paschi appunto necessita. Sì, allora forse dovremmo partire un attimo indietro, dalla precedente proposta, la quale non escludeva tecnicamente gli investitori retail, ma il paletto che prevedeva la Consob era quello di non sollecitare, cioè la banca si era impegnata a non chiamare le persone sollecitandole a fare questa conversione, ma l'eventuale investitore informato che avesse avuto il profilo di rischio adeguato e che avesse voluto fare questa conversione informato dai giornali o comunque voleva informarsi, tecnicamente avrebbe potuto aderire. Quindi la discriminante, dico questo perché il principio di adeguatezza si muove partendo da questo paletto, la discriminante è se è la banca che sollecita, fa una proposta di investimento, in questo caso si rientra nel perimetro della consulenza, e nel caso in cui vi sia una consulenza, perché è la banca che propone al cliente di fare questa conversione, il principio cardine della tutela dell'investimento stabilisce che chi fa la consulenza, quindi la banca che fa questa proposta, deve verificare se la proposta che viene fatta è o meno adeguata al profilo di rischio dell'investitore. Ora, noi sappiamo da fonti di stampa e da altre informazioni che circa il 90% di coloro che hanno queste obbligazioni subordinate in mano non ha un profilo di rischio adeguato per sottoscrivere azioni. Quindi io francamente non riesco a capire come sia possibile che la Consob consenta di venire meno al principio cardine, proprio è il fondamento, certo, della tutela degli investitori. Male che va, insomma, in questi 40.000 ce ne potranno anche essere un po', ma sicuramente, certo, potrebbe essere una percentuale minima di risparmiatori molto consapevoli del fatto che stanno modificando proprio il loro profilo di investitori e anche, come dire, la diversificazione del loro risparmio, perché da un'obbligazione bancaria che loro reputano quasi sicura come un titolo di Stato, anche se poi gli si aprirà un altro scenario che adesso commenteremo con Vito Lops, e passare appunto ad un'azione, insomma, il salto è notevole. Certo, quindi per tornare al principio di adeguatezza, questo principio dice che l'operazione, la banca non può fare un'operazione dietro sua consulenza, quindi la discriminante è che la filiale alza il telefono e dice: caro signor Rossi, lei ha 20.000 obbligazioni subordinate, sa che può convertirle in azioni. Ecco, se c'è questa cosa, questa scatta la consulenza e lì deve essere fatta la verifica di adeguatezza. Se il profilo di rischio precedentemente sottoscritto non consente di sottoscrivere azioni, la banca non, certo, può farlo. Questo alle regole attuali. Certo, tenendo poi anche conto del fatto che, ammettendo anche di avere di fronte, parlo del consulente in filiale, un risparmiatore che capisca questo principio, il tema è che comunque tu gli dai sempre un'informazione non completa, perché se anche gli dici ti rimborso l'obbligazione a 100 e gli spieghi bene che dovrà fare la conversione in azione, non hai comunque il prezzo di riferimento della conversione in azione. Per cui anche lì siamo, come dire, in un altro territorio, no? Pedone complesso, un'informazione che comunque è incompleta, per quanto tu possa rimodulare un prospetto informativo di un'operazione, la profilatura MiFID, di fatto, certo, non riesci a dir tutto alla persona. C'è un problema di complessità dell'operazione in sé, diciamo, questo però avviene in una seconda battuta e effettivamente è un problema complesso, però fa parte della complessità degli investimenti. Il problema è se quella persona non ha il profilo adeguato per gestire questa complessità. Certo. L'ultima volta che l'avevo invitata, Pedone, lei ci aveva raccontato che, oltre al fatto che avevamo delineato insieme, poi li ricordiamo, i quattro scenari della conversione MPS, come la scelta della maggioranza influisce su quella del singolo, avevamo ribattezzato tutto il nostro ragionamento, ma ci aveva anche raccontato come voi abbiate, come ADUC, aperto uno sportello speciale per raccogliere tutte le richieste delle persone che sono perplesse e confuse rispetto a queste novità, non sanno che fare. State raccogliendo adesioni alla vostra iniziativa, richieste di informazioni, quali sono i casi più diffusi? Sì, in realtà su questa operazione, proprio per il fatto, nel momento in cui è apparso palese che circa il 90% degli investitori non aveva tecnicamente la possibilità di fare questa conversione, questa nostra iniziativa l'abbiamo bloccata, tanto il fatto che era impossibile per loro tecnicamente farle. Adesso aspettiamo che come si pronunci la Consob, nel caso in cui la Consob dia questa possibilità, la vedo veramente dura, mi stupirei moltissimo che la Consob venisse meno, come ripeto, al principio cardine dell'investimento, ma in quel caso, nel caso in cui la grande maggioranza degli investitori privati potrà accedere a questo tipo di iniziativa, riapriremo questo sportello e cercheremo nei limiti di tempo, perché poi c'è anche un problema materiale di tempo. Ma esatto, quello che la interrompo, entro il 31 dicembre, no Vito, allora se anche la Consob desse il via libera, e comunque la banca deve richiamare queste 40.000 persone ad una per spiegargli, secondo il criterio che ci ha spiegato appunto Alessandro Pedone, l'operazione. Ma ci sono i tempi per fare tutto questo con Natale alle porte? Ma i tempi mi sembrano davvero, diciamo, irragionevoli, e quindi sostanzialmente sembrerebbe, cioè, se MPS riuscisse a effettuare questo aumento di capitale per via privata, sarebbe l'ennesimo colpo di scena di un anno dei colpi di scena, dove c'è stata la Brexit, Trump eccetera eccetera, e anche ci metterei anche questo. Ecco, e allora lo sa bene anche Marco Ferrando che le vicende di Monte dei Paschi pure le conosce bene, come quelle di tutte le altre banche italiane, tanto che in questi minuti è a Londra, non per Brexit, perché ormai l'abbiamo archiviata, ma per invece la presentazione del piano industriale di UniCredit. Però Marco, buongiorno intanto, proprio tu scrivi questa mattina sul Sole 24 Ore che a questo punto, per la seconda volta nel giro di pochissimo tempo, il destino dei Monte dei Paschi, ci sei Marco? È nelle mani delle sue 2.000 filiali. Me le voglio vedere la vigilia di Natale a chiamare i 40.000 risparmiatori che devono fare la conversione delle obbligazioni subordinate in azioni, a spiegargli tutto questo. Ma sì, è così, è uno dei tanti paradossi, se vogliamo, della situazione del Monte dei Paschi degli ultimi mesi. Non dimentichiamo che già a fine novembre 24 c'è stata un'assemblea straordinaria, quella che doveva approvare tra l'altro il piano con l'aumento di 5 miliardi, serviva un quorum del 20% del capitale. Se non ci fossero stati piccoli azionisti proprio contattati dalla rete ad uno a mandare le deleghe, l'assemblea non si sarebbe tenuta, quindi neanche sarebbe potuto iniziare il processo di aumento di capitale. Ora una situazione analoga si sta ponendo per l'aumento. Quindi una banca che fino a ieri pensavamo potesse raccogliere sul mercato globale dei fondi del Qatar i soldi necessari per sopravvivere, invece deve bussare alla porta dei suoi clienti, perché poi spesso un obbligazionista, un azionista è anche un cliente storico, e questo appunto, esatto, se vogliamo, è un paradosso e che ci dice anche la difficoltà, perché se vogliamo la rete del Monte ha dimostrato di avere una capacità di resistenza incredibile, perché con tutto quello che è successo al Monte negli ultimi anni altre banche probabilmente avrebbero chiuso baracca e burattini già da tempo, invece il Monte tutto sommato ha resistito, la raccolta è calata ovviamente, ma non c'è stata quell'emorragia che in altre banche anche c'è stata. Certo, questa partita sulle obbligazioni è molto molto delicata per i motivi che raccontavate prima. Certo. C'è un rischio, c'è un cambio di profilo di rischio, c'è il rischio di perdere parte dell'investimento. Non dimentichiamo che il grande subordinato da 2 miliardi scade l'anno prossimo, quindi in teoria se le cose fossero andate come dovevano, l'anno prossimo i 40.000 risparmiatori si sarebbero visti rimborsare la somma che hanno investito 10 anni fa. Quindi insomma, parliamo di una situazione molto delicata. Certo. Insomma, piccoli risparmiatori, come tu scrivi nel pezzo stamattina, decisivi per il salvataggio di questa grande e storica banca. Il paradosso è veramente questo, ma proprio in virtù di questo ruolo che viene riconosciuto loro, la conversione delle obbligazioni appunto ai prezzi di emissione, più poi la contestuale conversione in azioni a prezzi al momento sconosciuti, ma se la banca riconoscesse un sovrapprezzo proprio in virtù della rilevanza che i piccoli risparmiatori hanno per questo potenziale salvataggio, non potrebbe essere anche questa una strada percorribile? Secondo te l'hanno accarezzata, Marco? Ma chi vuol dire? Un premio di qualche tipo, non lo so. Diciamo che la coperta sembra veramente corta. Quindi probabilmente la possibilità di convertire al valore nominale, quindi a 100, viene già considerato un miracolo di maggior favore che oggi la banca può riconoscere. Cosa ci racconti di UniCredit? Abbiamo detto già tante cose nel corso del nostro giornale radio, ma soprattutto secondo te, che da Londra respiri un po' direttamente le parole di Mustier, UniCredit più 7 punti in borsa questa mattina. Cosa è piaciuto al mercato? Il fatto che avesse già digerito da tempo tutte le indiscrezioni sull'aumento di capitale da 13 miliardi, i 6.500 esuberi entro il 2019, non c'è neanche un dividendo per l'esercizio in corso. Cosa piace al mercato? La cessione delle sofferenze a Pinco e Fortress? Cosa ci dici, Marco? Sicuramente il maxi aumento da 13 miliardi, che è il più grande di sempre che si sia mai visto in Italia e che anche qui insomma, sarà da seguire con interesse, era già stato smaltito perché da settimane che se ne parla la cifra era uscita, mai smentita, quindi era data per acquisita. Sicuramente, come sempre avviene, il taglio dei costi e in particolare degli addetti piace al mercato. Unicredit scenderà da 100.000 addetti che erano nel 2015 a 87.000, quindi in totale sono 14.000 persone in meno in 3 anni, di cui 6.500 in più rispetto al piano vecchio. Questo è sicuramente piaciuto. Come dicevi tu, è piaciuto anche il tema NPL, che sappiamo il mercato riconosce come il grande problema delle banche italiane. Unicredit farà accantonamenti per 8 miliardi, quindi di fatto utilizzerà buona parte delle risorse incassate dall'aumento per elevare le coperture, ma non solo eleverà le coperture, ma anche dismetterà. E la prima operazione l'ha fatta proprio oggi, nella notte, 17 miliardi dismessi, o perlomeno avviato il processo di dismissione, ai prezzi di post-svalutazione. Quindi non solo si prepara, ma anche si sta attivando, e questo il mercato piace, perché una banca che si muove in fretta, forse più in fretta delle altre, sicuramente viene riconosciuta e apprezzata. Certo. Marco, grazie per essere stato con noi. Noi adesso andiamo velocemente di nuovo a raccontarvi la seduta di borsa con qualche dettaglio in più rispetto alle storie di Monte dei Paschi e Unicredit. C'è poi Sergio da Terni pronto con una domanda sulle obbligazioni MPS. Poi avremo anche un altro interessantissimo collegamento telefonico con un'altra ospite. A tra pochissimo. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Aceto Balsamico di Modena del Duca, per un Natale al vertice del sapore. Cuore e denari. Zietta, ti devo parlare del Monte dei Paschi di Siena. Ti ricordi, no, che ti avevo detto che sta cercando fino a 5 miliardi di euro tra gli investitori, quindi sul mercato, con questo aumento di capitale? Eh sì, la cosa pazzesca è che MPS fa un aumento di capitale da 5 miliardi per mettersi in salvo e poi deve dare quasi 4 di questi miliardi ai vari consulenti che l'aiutano a salvarsi. Ok zia, lo so che ho sbagliato tutto a fare questa professione qua e a non fare l'avvocato che lavora per MPS o anche la società che si occupa di riscuotere i crediti malconci di MPS, ma non mi sembra il caso di infierire, Eccolo qua, la nostra Carlotta Scozzari, collega del Messaggero. Carlotta, buongiorno, benvenuta a Cuore Denari. Buongiorno, grazie, grazie mille. Quello che abbiamo proposto ai nostri ascoltatori era un contributo tratto da un tuo video che pubblichi appunto anche su YouTube e sul tuo blog, ed è il frutto di questo, in realtà è l'origine poi da cui trae ispirazione questo tuo libro, che è stato consegnato proprio alle librerie in questi giorni, Io e zia Imma nei labirinti della finanza. E questa era proprio una chiacchierata fatta con zia Imma sulle vicende di Monte dei Paschi, che tanto stanno arricchendo la cronaca finanziaria in questi giorni, e delle quali vicende appunto stai scrivendo anche tanto tu per il Messaggero. Sì. Carlotta, la domanda è d'obbligo in queste circostanze, lo sai, come nasce questo libro? Il libro nasce dalla curiosità di zia Imma, che è questa mia zia che a un certo punto, sempre curiosa di politica e di attualità, mi subissava di domande di finanza, in particolare sulle banche, perché come tu ben sai, come tutti sanno, stanno succedendo molte cose sulle banche nel settore finanziario e non sempre è facile cercare di capire, di destreggiarsi in queste vicende. Da qui nasce appunto l'idea di questi video, di queste video chiacchierate con la zia, da cui poi ha preso vita anche l'ebook, perché è un ebook, non certo. È un libro, non si trova in libreria. Ah ecco, vabbè, quindi alle librerie virtuali, sì. Ecco, l'hai consegnato. Esatto, virtuali, e tra l'altro sì, ricordiamo per chi fosse a Milano, Carlotta, che stasera il libro alle 18 viene comunque presentato allo spazio Forum e Libreria Egea di via Bocconi 8 a Milano. Ecco, esatto, così ho dato tutti i parametri, tutti. Perfetto, il battesimo ufficiale. E senti, il tuo libro nasce, diciamo, esattamente un anno fa, subito dopo il varo del famoso decreto salva banche e la risoluzione delle altre 4 banche, no? Perché tu dici esattamente nel libro, da lì tutto è cambiato. Da lì cambia il paradigma della finanza, cambia il paradigma bancario, perché cambia il modo in cui vengono salvate le banche in caso di dissesto. E con il salvataggio delle quattro banche, quindi Etruria, Marche, Carichieti e Cariferrara, abbiamo un antipasto di quello che sarà il bail-in, cioè le nuove regole in vigore dal 1 di gennaio di quest'anno, che prevedono, in caso, naturalmente nel caso più estremo in cui la banca sia messa particolarmente male, prevedono che possano essere fortemente penalizzati, se non addirittura azzerati, gli azionisti, gli obbligazionisti subordinati, come appunto abbiamo visto per le quattro banche, ma anche gli obbligazionisti tradizionali non garantiti e addirittura i correntisti oltre 100.000 euro. Certo. Quindi niente più soldi di Stato. In teoria poi vedremo che ci sono delle eccezioni e con Monte dei Paschi di Siena adesso si sta tentando di applicare una di queste eccezioni in maniera non particolarmente semplice, come abbiamo raccontato anche all'inizio. Esatto. Senti Carlotta, se zia Imma magari ce le ha già, noi ci auguriamo di no per lei perché si troverebbe a dover fare una scelta complessa, ma se avesse in mano delle obbligazioni subordinate e ti chiamasse in questi giorni per chiederti un suggerimento di comportamento e soprattutto se la chiamasse la banca per chiederle se vuole convertire in azione, tu che cosa le suggeriresti di fare? Anche se non possiamo fare sollecitazione all'investimento, certo, ma a quali aspetti, a quali aspetti le suggeriresti di prestare particolare attenzione? Allora, zia Imma non ha le obbligazioni del Monte dei Paschi di Siena, ma le ha Rosetta, una sua amica toscana. Quindi io in una telefonata, in parte ripresa anche nell'ebook, dico a zia Imma che dovrebbe immaginare, che Rosetta dovrebbe immaginare di essere un po' la trasmissione Affari Tuoi e scegliere quindi se accettare il pacco, e cioè la conversione di queste obbligazioni subordinate in azioni, oppure se andare avanti e tenersi i titoli. Il ora, pacco però, inteso come qualcosa di ignoto o nel senso letterale del termine? No, il pacco inteso come il pacco di Affari Tuoi, ecco, che non sai cosa c'è dentro, esatto. Sì, infatti. Sì. Ecco, il problema, raccontavo appunto a zia, è che se tutti scelgono di tenersi i titoli della banca e quindi la banca non ottiene i 2 miliardi che spera di ottenere dalla riapertura di questa offerta rivolta ai piccoli investitori, ecco, in questo caso qua il piano di salvataggio rischia di saltare, con l'ipotesi più drastica naturalmente di un bail-in o di un burden sharing, che in ogni caso, a dispetto della complessità delle parole inglesi, significano che queste obbligazioni subordinate potrebbero comunque essere penalizzate, convertite in azioni forzosamente e a prezzi meno vantaggiosi di quelli dell'offerta che potrebbe essere riaperta, se non addirittura azzerate. Quindi ecco, qualsiasi piccolo risparmiatore, piccolo investitore che abbia queste obbligazioni subordinate deve pensare che nel caso in cui questo piano di salvataggio non vada bene, si può anche arrivare a un bail-in, ecco, in linea teorica, ecco. Perché da un anno a questa parte è cambiato tutto, quindi signori miei, mettetevi bene in testa tutte le parole che la nostra Carlotta sta pronunciando. Carlotta, un'ultima domanda, poi ti lasciamo perché ti stai preparando al tuo grande battesimo di questa sera, ma il tema portato avanti da questo tuo testo, come tanti di quelli che vediamo in circolazione da un po' di tempo a questa parte, è di provare a spiegare la finanza con un linguaggio più semplice e sicuramente nuovo nel modo in cui lo fa tu con queste conversazioni con zia Imma. Un modo che è più che mai necessario, no? Ha anche questa finalità il tuo libro? Sì, ha assolutamente questa finalità, perché ricordiamoci bene, io alla zia lo dico sempre e lei se n'è accorta ormai, l'ha capito, qualsiasi vicenda politica e di attualità è strettamente collegata agli avvenimenti finanziari. L'abbiamo visto con l'accelerazione alla formazione del governo, proprio legata anche all'esigenza di adottare un decreto legge per il Monte dei Paschi di Siena, che sarà adottato a giorni, ora lo vedremo. Comunque c'è un legame indissolubile tra la politica e la finanza, ma soprattutto quello che succede nelle banche, capire quello che succede nelle banche e nella finanza è fondamentale per capire dove si vanno a mettere i propri soldi. Abbiamo visto che con il salvataggio delle quattro banche di poco più di un anno fa, di cui abbiamo parlato prima, ci sono stati molti piccoli risparmiatori che hanno perso il loro investimento e che non se l'aspettavano, perché non si aspettavano che la situazione fosse così drammatica. Certo. Quindi riuscire a capire un minimo le vicende economiche, le vicende finanziarie delle banche in particolare, può servire a tutelare anche il proprio portafoglio. Certo. È indispensabile. Grazie a Carlotta. Senti, per poterlo scaricare il tuo libro, che suggerimenti diamo ai nostri ascoltatori, dove trovano Io e zia Imma nei labirinti della finanza? Lo trovano sul sito dell'Egea, che è l'editore, e Gruppo Bocconi, Università Bocconi, oppure lo trovano su Amazon e su Kindle Store. Benissimo, ottimo, grazie, in bocca al lupo per la tua avventura. Allora Carlotta, ci sentiamo presto. Grazie, grazie presto. A voi. Noi intanto facciamo una cosa, allora, fra un po' abbiamo il traffico, naturalmente abbiamo anche degli ascoltatori pronti ad intervenire all'800 24 00 24, metterei in cantiere la domanda di Sergio da Terni. Carmelo, se sei d'accordo, così lasciamo riflettere Vito Lopsi e Alessandro Pedone sulla risposta da dare al nostro amico. Sergio, benvenuto, e poi naturalmente i microfoni aperti anche agli altri che vorranno intervenire in diretta. Sergio, eccoci, buongiorno. Salve, buongiorno a tutti. Scusate l'intervento, ma era una domanda molto banale. Ma non si deve scusare, siamo noi che vi chiamiamo e che vi chiediamo di intervenire, Sergio, ci mancherebbe altro. No, ci va dica. Bene, io sono uno dei 40.000, diciamo, obbligazionisti di queste subordinate. Infatti, no, 10 anni fa, quando di bail-in non si parlava, esatto, non si sapeva nulla, quindi io mi sono trovato in corso d'opera con questo tipo di situazione. No, mi chiedevo, siccome io non ho un MiFID adeguato per la conversione in azioni, qualora volessi in modo, diciamo, proattivo chiedere una modifica del mio MiFID per anticipare il più possibile, diciamo, questa conversione, è una cosa possibile che si può fare? Certo, che deve, oppure deve essere chiamato da qualcuno per essere sollecitato, chiamato in questo senso. Perché mi dicevo, appena poi si apre la finestra, effettuerai immediatamente il prima possibile la conversione in azione. Sergio, la ringrazio per la domanda, sicuramente molto diversa rispetto a quelle che ci saremmo potute aspettare questa mattina. Addirittura un risparmiatore che vuole attivarsi per conto suo per provvedere appunto a adeguare questa sua situazione, visto che di adeguatezza stiamo parlando questa mattina. Ci sentiamo tra pochissimo. Nuova Giulietta Winter Edition, optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta... Cuore e denari. Allora, Sergio da Terni ci ha raccontato di essere un sottoscrittore appunto di una delle obbligazioni subordinate sottoscritta appunto nel 2008, di quelle che nei prossimi giorni potrebbero presumibilmente essere al centro della richiesta da parte della banca di conversione volontaria in azione. Quindi prima riscatto, praticamente prima fase riscatto dell'obbligazione con un prezzo identico a quello della sottoscrizione iniziale, quindi a 100, anche se adesso sul mercato queste obbligazioni valgono 54, come ci aveva detto prima Vito Lopes, e poi contestuale reinvestimento in azioni. Allora, Sergio non vuole aspettare di essere chiamato dalla banca, ma vuole rendersi proattivo in questa operazione, quindi una cosa anche abbastanza originale che forse non ci aspettavamo questa mattina, e chiede che cosa può fare, se è anche contemplato l'eventualità di questo tema. Il tema è che lui vuole fare volontariamente la conversione del suo profilo di investitore di rischio, Vito Lopes. Ma io credo che debba comunque rifare il questionario. Questionario della MiFID, da cui emerge il profilo, e rispondere in modo tale che il suo profilo diventi più rischioso. Però insomma, ad occhio lui sicuramente ha un po' più di consapevolezza rispetto a quella che magari potremmo trovare tra tanti che potrebbero ricevere questa telefonata della banca e raccoglierla in maniera molto, come dire, un po', non dico da sprovveduti, ma... Incuriosita, esatto. Sì, tra l'altro questa è una domanda molto interessante, perché pone in termini schietti la questione, cioè qui si tratta eventualmente di riuscire a far convertire in modo volontario sia la obbligazione in azione, ma anche il profilo di rischio, cioè per sperare di perderci tra virgolette il meno possibile. Ci sono dei risparmiatori che, come il radioascoltatore che ha chiamato, che si stanno tra virgolette chiedendo il problema di convertire il proprio profilo di rischio, anche se da un punto di vista tecnico il profilo di rischio è un qualcosa che non è che puoi convertire da un giorno all'altro solo per l'interesse, infatti, di un singolo titolo. È un discorso legato proprio alla propria sensibilità all'investimento, esatto. Chissà che tipo di pianificazione finanziaria quindi, ti sei fatto, esatto, e quindi è tutto, e quindi diciamo che in un certo qual momento ci si svende sia l'obbligazione ma anche il profilo di rischio, che risponde a criteri più profondi. Più Alessandro Pedone, tornano questi ragionamenti che stiamo facendo. Il caso di Sergio ci ha un po' scompaginato le nostre certezze. Lui vuole allora, rendersi questo... proattivo. Che ne pensi? Il caso di Sergio mostra il cuore del problema. Certo. Tra l'altro, scusi, abbiamo chiesto a microfoni spenti a Sergio, adesso mentre eravamo in pausa, come avesse sottoscritto, se tramite un consulente finanziario, tramite la filiale, tramite lo sportello. Lui dice che aveva fatto questa sottoscrizione di queste obbligazioni presso la filiale appunto bancaria, per cui presso proprio lo sportello, immagino. Sì, stavo dicendo che rispetto alle norme precedenti, diciamo gli accordi che valevano per la precedente conversione, quelle di pochi giorni fa, la Consob aveva imposto che il profilo di rischio da considerare fosse quello della fine del mese precedente, quindi nel caso in cui l'investitore avesse voluto cambiare di sua spontanea volontà, si presume, il profilo di rischio, quello non sarebbe comunque bastato. Il nodo che potrebbe essere invece in questo momento oggetto di trattativa tra la banca e la Consob potrebbe essere appunto il caso, come presumiamo che sia questo ascoltatore, che volontariamente uno decide di cambiare il proprio profilo di rischio, perché il quale non nascondiamoci dietro un dito, il problema è che molto spesso questi cambi di profilo di rischio erano sollecitati dalla banca in maniera strumentale per piazzare prodotti non adeguati. Quindi la Consob precedentemente ha detto guardate che si possono vendere, si possono fare questa conversione, ma vale il profilo di rischio che è stato sottoscritto un po' di tempo fa per evitare questo comportamento che in altre circostanze è stato largamente diffuso. Ora, siccome noi, come abbiamo detto prima, sappiamo che il 90% non ha il profilo di rischio adeguato, se ci sarà una adesione massiccia, questa adesione sarà stato frutto di una conversione massiccia dei profili di rischio. Saranno tutti investitori consapevoli come questo nostro ascoltatore? Io sinceramente ho molti dubbi. Cosa quindi, Sergio, secondo lei, vabbè, adesso qua pure noi non è che ci possiamo mettere a dire agli ascoltatori cosa devono fare o non fare. Lui mi sembra comunque abbastanza lucido nella sua volontà di aderire a questa operazione. Tecnicamente, secondo lei, cosa deve fare? Banalmente farsi vediamo le regole che la Consob aspettare ancora un pochino farà. Un attimo, esatto. Se fossero quelle precedenti non potrebbe farlo. Nel caso in cui invece la Consob diciamo applicasse la normativa così com'è, la normativa così com'è consente all'investitore di andare lì, cambiare il suo profilo di rischio e dopo con il profilo di rischio modificato fare le operazioni in linea con il profilo di rischio modificato. Quindi questo lo potrebbe fare già da subito se lui volesse fare una cosa del genere ed è consapevole del fatto che sta modificando il suo profilo di rischio non solo per questa operazione ma per tutte le altre operazioni. Quindi se la banca gli sollecita l'acquisto di azioni Pinco Pallino con il nuovo profilo di rischio, presumibilmente potrà avere le azioni Pinco Pallino di qualsiasi altra cosa o il prodotto finanziario rischioso, eccetera eccetera. Insomma, la situazione è veramente fluidissima, caldissima, e direi che comunque al momento, Sergio, forse le conviene aspettare ancora un secondo prima di prendere delle iniziative. Stavo cercando di capire se ci fossero altre domande interessanti appunto da parte dei nostri ascoltatori. In realtà in molti ci stanno chiedendo c'è Marco per esempio da Pistoia che dice che ha, non so se riusciamo a mandarlo in onda, obbligazioni MPS e la banca pare che, vediamo se ci riesco con Marco Lombardo, pare che lo abbia chiamato e messo un po' sotto pressione per decidere cosa fare, quindi magari al momento ancora la banca non ha l'opportunità di concretamente far partire le adesioni volontarie alla conversione, ma magari sta facendo dei piccoli sondaggi, Vito, no? Per capire se ci sono le volontà o meno da parte di questi 40.000. Ci si sta portando avanti. Niente, non ce la facciamo allora con comunque insomma il senso della domanda del nostro ascoltatore è questo. Altri che continuano a raccontarci di essere preoccupati dei loro conto correnti e i loro conti correnti, Pedone, al momento almeno su quelli stiamo tranquilli finché ci sono le regole anche del bail-in e del fondo interbancario di tutela dei depositi per importi inferiori ai 100.000 euro, fino a lì siamo tutelati sulla liquidità pura. Non ci sono, anche diciamo l'aumento di capitale di 5 miliardi, comunque sia i numeri non sono tali da pensare logicamente che ci siano rischi per i conti correnti, certo. Quindi c'è una situazione di dissesto, non ce la nascondiamo eccetera, ma nemmeno creiamo allarmismi quando non sono giustificati. Conti correnti non sono in questo momento, non sono assolutamente a rischio. Marco, lo abbiamo messo in linea. Marco, in 5 secondi, la banca l'ha chiamato, le ha chiesto che cosa? No, ecco, sì, mi ha chiesto che entro le due dei venerdì scorso sarebbe scaduto il termine se io volevo convertire o no. Ah, per la prima parte, quindi Marco. Non, assolutamente, assolutamente non mi ha... Grazie, devo salutarla. Comunque potete scrivere anche a filo diretto +24@ilsole24ore.com perché i colleghi di Plus24 stanno facendo raccolta di tutti i casi legati a Monte dei Paschi e rispondono ai lettori. Grazie ad Alessandro.